cioè i ginelbadi, li cerchi e non li trovi. Noi siamo nati fuori, per cui se non li trovi, sempre fuori, siamo fuori. Sogniamo questi money, ma solo coi miei umi. Cioè i ginelbadi, li cerchi e non li trovi. Noi siamo nati fuori, per cui se non li trovi, sempre fuori, siamo fuori. Sogniamo questi money. Vengo da lì dove non c'è spazio. Flow Champions League, tu sei solo scarso. Spacco le casse se poi la alzo. La prima di classe, giuro la balzo. Con questa Wii gioco a nascondino. Prima lo bevo, dopo la giro. Attori nati, Robert De Niro. Affezionati a Natale sul Nilo. Ma un film italiano allora fa schifo. Piace a tutti questo paesino. Basta che non tocchi il mio giardino. Io penso alla gente non prendermi in giro. Sito strana, ah, mascherina bianca, yeah. Gente senza fresca, ma con la Wii da in tasca, yeah. Tua strana qua, meglio non pensarci, na. Anche imbavagliato, bro, giuro non mi fermerò. Comincio i ginelbadi, li cerchi e non li trovi. Noi siamo nati fuori, per cui se non li trovi, sempre fuori, siamo fuori.